giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig, breve edizione meridiana ma con molti temi di interesse, a cominciare dalla seconda giornata della presenza del Vespucci a Trieste. Sulla nave scuola della Marina Militare sono cominciate le visite del pubblico, poi da Mortegliano il campo di addestramento della Croce Rossa, da Pordenone la rassegna fieristica Orto Giardino che fa il pieno di visitatori e gli ultimi preparativi per la sfilata del Carnevale di Muggia. Nelle pagine dello sport in primo piano calcio e basket. Dopo il bagno di folla in occasione dell'attracco di ieri pomeriggio a Trieste resta palpabile l'entusiasmo per la nave Vespucci, a bordo della quale sono cominciate questa mattina le visite del pubblico. In virtù delle numerose richieste, nelle ultime ore era stata decisa una proroga anche per martedì mattina dalle 9 alle 13, ma anche per queste 4 ore c'è stato subito il sold out. L'orgoglio e la curiosità per le attrezzature, gli spazi, il mondo del mare e la storia di un'imbarcazione, ma anche per la vita a bordo dell'Amerigo Vespucci. Tante le domande rivolte a chi ha accompagnato i visitatori alla scoperta della nave approdata ieri nel porto di Trieste, dopo 2 anni di navigazione in giro per il mondo per la tappa finale del tour mondiale compiuto dallo storico veliero e nave scuola della Marina Militare. Tante le richieste di poterla visitare, al punto che al programma iniziale è stata aggiunta un'ulteriore giornata il 4 marzo per dare l'opportunità a più persone possibili di conoscerla. Presentata questa mattina anche la 5ª edizione del Nastro Rosa Tour, la regata più lunga del Mediterraneo organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare, è inaugurata la mostra dedicata ad Agostino Straulino, marinaio ufficiale e sportivo, nella sede della Lega Navale Italiana. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E tra i marinai dell'Amerigo Vespucci, sbarcati ieri a Trieste al termine di un giro del mondo durato ben 2 anni, c'erano anche 2 friulani, Giulia Magrini di Pradamano e Luca Martinuzzi di Udine. Sentiamo nelle loro voci il racconto dell'emozione del ritorno con le famiglie ad attenderli sul molo. È stata una bellissima emozione poter scendere e abbracciare i miei nipoti, i miei genitori, i miei zii e i miei fratelli che sono venuti qua ad assistere a questo arrivo della nave in regione. Non mi sarei mai aspettata un'accoglienza così grande sia da parte della città sia da parte dei miei familiari che sono venuti qua in questa giornata molto ventosa e molto fredda, e quindi è stata veramente una grandissima emozione saperli sulle rive e sapere che guardavano questo bellissimo spettacolo. I nipoti erano emozionatissimi di vedere finalmente dal vivo sia la nave come anche le frecce tricolori che ci hanno accompagnato in questo ritorno, ci hanno dato il bentornati a casa. In occasione dell'arrivo a Trieste della nave Vespucci, l'associazione Trieste Summit ha organizzato un incontro su Trieste come punto di arrivo del corridoio economico indo-mediterraneo. L'appuntamento alla stazione marittima alle 15. A Mortegliano i volontari della Croce Rossa sono impegnati in un'operazione di addestramento alle emergenze. L'appuntamento è aperto al pubblico. Ascoltiamo. Siamo nella zona di ammassamento di Mortegliano, qui è stato allestito un campo da parte della Croce Rossa italiana che si sta addestrando in questo fine settimana con un centinaio di volontari, 50 dei quali hanno dormito qui. Chiediamo la finalità di questa iniziativa, di questo addestramento, a Roberto Nott, che è uno degli organizzatori di questo fine settimana, organizzato appunto dalla Croce Rossa, Comitato di Udine e Comitato di Palmanova. Cosa state facendo qui? Qui abbiamo simulato un'emergenza proprio nell'area già prevista per l'ammassamento dei soccorritori. Abbiamo simulato sabato mattina un'emergenza generica. È partito il nostro primo nucleo di ricognizione con i droni. Sono stati trasmessi via streaming alle varie sedi. Nel frattempo i volontari si sono ritrovati nelle varie sedi, in questo caso in particolare Udine e Palmanova. E da lì, in base alla ricognizione fatta, abbiamo diviso i volontari in squadre di specialisti, caricato i mezzi e siamo arrivati in questa zona. Nel frattempo, come prima partenza, abbiamo inviato la segreteria e la sala radio per tenere le comunicazioni con tutte le altre sedi e pian piano, e anche in modo abbastanza tranquillo e sereno, abbiamo allestito il campo di accoglienza dei soccorritori in questo caso. Sentite in sottofondo probabilmente anche il rumore dei generatori che permettono a questo campo di essere completamente autosufficiente anche dal punto di vista elettrico. Mortegliano, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12 e quasi 20 minuti, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo da sereno a poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste e a Gorizia 10 gradi, a Udine e a Pordenone 11, nell'area montana a Tolmezzo 8, a Tarvisio 4, a Forni di Sopra 6 gradi, sul Piancavallo 3, ancora in quota sullo Zoncolan meno 1, sull'Ussari meno 4, a Grado e a Lignano 10 gradi e 5 decimi. Previsioni a cura dell'ARPA, oggi avremo cielo in prevalenza sereno, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, sulla zona di Trieste raffiche anche sostenute. In Fiera Pordenone è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, quello con Orto Giardino. Alla classica rassegna che anticipa la primavera è abbinata anche quest'anno il salone enogastronomico Cucinare. La manifestazione Orto Giardino in Fiera a Pordenone, abbinata al Salone dell'Enogastronomia di Qualità Cucinare, conferma il successo di pubblico nei 25.000 metri quadrati di aree espositive dedicate alla floricoltura e al vivaismo. Spiccano le nuove proposte dei progettisti con 8 allestimenti di giardino. Giovanna Bellotto, architetta del paesaggio e direttrice artistica del Festival dei Giardini. Su un unico progetto si può trovare una parte più feng shui, una parte più autoctona, una parte più mediterranea, oppure anche delle disposizioni più moderne, quindi appunto la necessità delle persone di avere più luoghi dove poter evadere con la mente. Tra le criticità del settore sono 500 le imprese del verde di Confartigianato in regione, la gestione dei materiali di risulta. Orlando De Prae, presidente, imprese del verde Friuli Venezia Giulia. Noi vorremmo che queste ramaglie fossero trattate come sottoprodotto in maniera molto veloce, molto semplice, molto sintetica, anche perché è un prodotto che non ha grandi difficoltà. Poi sicuramente la gestione del contratto di lavoro, la formazione del contratto di lavoro, al tavolo nazionale stiamo lavorando per il contratto di lavoro e la gestione dei CAM fatta in maniera più corretta e importante per noi. Interessante il lavoro sulle zone umide realizzato dagli studenti dell'Istituto Il Tagliamento di Spilimbergo, immancabile, un passaggio nel mondo delle rose o delle orchidee. Manuele Teano è un collezionista e vivaista di orchidee. Io ne ho 6.000 orchidee. E sono poche perché in realtà sono 30.000 specie in natura, più tutti gli ibridi che l'uomo ha creato nel corso degli ultimi 3 secoli. È il fiore preferito dai collezionisti perché è all'apice dell'evoluzione vegetale, con la capacità che ha questa pianta di adattarsi e con la bellezza che ci regala. Ricco anche il programma di incontri in mattinata al convegno dell'apicoltura pordenonese su problemi e prospettive del settore. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Muggia tutto pronto per la sfilata del 71esimo carnevale, il corso mascherato comincerà alle 13. Sono le maschere, i costumi, i colori, la musica e l'ironia dei carri allegorici di Muggia a segnare il momento clou del Carnevale 2025. 8 le compagnie che sfileranno per il centro della cittadina confinaria. Tra i temi che caratterizzano i carri di quest'anno, l'universo del caffè e le atmosfere orientali del Giappone. L'inizio della sfilata è previsto da programma tra circa 3/4 d'ora verso le 13. Il centro di Muggia al momento è chiuso al traffico. Nessun cambiamento di percorso è previsto per questa edizione, la 71esima, ma rispetto a quella dello scorso anno, la sfilata si concluderà in via Roma all'altezza del complesso Asugi. Lì sarà posizionata la giuria che avrà il compito di valutare tutti i dettagli di ogni singolo spettacolo portato in scena dalle varie compagnie e decretare quindi il vincitore. La proclamazione è prevista per le ore 18:30. Muggia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il calcio, la nuova vittoria dell'Udinese riapre scenari adeguati alle ambizioni della società bianconera e del pubblico friulano. Il rigore segnato da Toven con il pallone consegnatogli da Lucca e la prestazione di Padelli mettono da parte il capitolo infortuni e le polemiche sui protagonisti. Ma ascoltiamo il portiere 39enne, protagonista di 2 parate e salva risultato, sentito da Sebastiano Franco. È stato bello perché mi ha fatto sentire vivo, mi ha fatto sentire il calore del pubblico, dei miei compagni, della società, di tutti. E questo per me è importante perché significa che durante la settimana do il mio contributo, mi alleno bene, cerco di fare tutto nel migliore modo possibile. Sono veramente contento e gratificato, ecco. E ora il basket, oggi giocano tutte in casa le 3 formazioni regionali, la prima a scendere in campo nel pomeriggio, la Pallacanestro Trieste contro Treviso. Torna la Serie A dopo 3 settimane di pausa dovute a Coppa Italia e impegni delle nazionali. Trieste, che ha dato 1 settimana di vacanza alla squadra dopo le Final Eight di Torino, chiuse con la semifinale persa con Trento, ospita Treviso alle 16.30 nel derby del Nord-Est. Match che vale molto, visti 6 punti di vantaggio in classifica alle biancorossi. In caso di vittoria, un enorme passo in avanti verso la qualificazione ai play-off. C'è però da fare i conti con l'infermeria nel reparto piccoli. Ancora fermo Ross, decisivo all'andata con 30 punti, e in dubbio l'altra stella Valentine, alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Esterni così ridotti di fatto a Ruzier e Brown, quest'ultimo fresco di rinnovo pluriennale, con l'ultimo arrivato McDermott a dare una mano e la possibilità per Campogrande di guadagnarsi qualche minuto. In A2 sfida al vertice per la Pudine, in fuga con +4 sull'inseguitrice Rimini. I friulani alle 20.30 al Carnera affrontano Cantù, che dopo la sconfitta nello scontro diretto di dicembre è crollata. I brianzoli a -6 sono all'ultima chiamata per provare a rimettere in discussione il primato della squadra di Vertemati. Nel finale della vittoriosa trasferta di Rieti, i bianconeri sono riusciti a imporre la propria difesa, servirà a usare la stessa arma anche contro la squadra di Brienza, che peraltro sarà anche l'avversario in semifinale di Coppa Italia tra 2 settimane a Bologna. Sfida al recente passato invece per Cividale, tornata a vincere in settimana ad Avellino dopo un momento complicato. Ritrovato Miani, i ducali sperano in un apporto migliore di Redivo nella partita contro il fanalino di coda Piacenza, un piede già in B ma che tra le sue fila ha visto esplodere l'ex Gesteco Marx, ceduto a dicembre per lasciar spazio a Lamb. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa edizione è stata realizzata da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e Marco Ferrito, collaborato in redazione Daniela Sossi. 12:26, ora linea all'anticipo della massima serie di calcio Monza-Torino, prossima edizione del GR regionale alle 18:30. Grazie per averci seguito e ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.